2024 2024 di Enrico Pagliarini. Oggi c'è Fabio Cantadori in regia, che ringraziamo già da questo momento. Sono le 15:39 minuti, questo è 2024. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi, è 2024@radio24.it. Ma visto che c'è chi dice che ormai la posta elettronica è una cosa vecchia, siamo anche su Facebook, potete quindi postare un messaggio nella nostra pagina Facebook. Basta scrivere e digitare 2024. A proposito di Facebook, gira una battuta in questi giorni. Fino a qualche tempo fa, ancora oggi, c'è chi per fare lo snob dice: io non ho la TV. E oggi invece la nuova moda per chi vuole fare lo snob è: io non ho Facebook. Potete utilizzarla con i vostri amici. Saluto Gianfranco Giardina, che è direttore del magazine digitale dday.it. Ciao Gianfranco, bentornato. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Io che sono un attento, comunque sono un lettore di dday, che trovo sempre molto interessante, con spunti anche inediti. Ho letto recentemente, ed è un argomento che volevo trattare in trasmissione, qualcosa di interessante sulla produzione delle TV, e soprattutto sto leggendo su dday che molti produttori storici di TV stanno abbandonando la produzione, cedendola ai cinesi. Cosa sta succedendo? Ma allora, è diversi anni che oramai nel mercato dei TV c'è una grossissima pressione competitiva sui prezzi, e i prezzi li abbiamo visti, noi lo ricordiamo molte volte, alla fine del ciclo di vita del tubo catodico 10 anni fa un TV 32 pollici costava 5 milioni di lire, parlo di 10-12 anni fa, oggi un TV 32 pollici si può acquistare, anche TV molto sofisticati con la presa di rete, a 350 euro, quindi è una differenza incredibile, anche senza contare la svalutazione, quindi l'inflazione e gli effetti del tempo, che insomma in 10 anni si sentono. Vuol dire che un prodotto oggi molto più sofisticato, sottile, digitale, con doppio ricevitore all'interno, quindi molto più complicato, costa praticamente possiamo dire un decimo quasi del prezzo di 10 anni fa. Ecco, questo è stato un grande vantaggio per i consumatori. Oggi quasi tutti possono permettersi un TV grande schermo piatto digitale, anche grandissimo schermo, arrivano a 50, 55, 65 anche pollici, però chiaramente questa battaglia di prezzo non è stata soltanto possibile grazie a dei miglioramenti dell'efficienza di produzione, ma anche a scapito dei margini, e i produttori che nell'epoca d'oro facevano grandi lauti guadagni, diciamo, sul TV, che non a caso era considerato la merceologia principe, da qualche anno, soprattutto i meno efficienti, sono entrati in difficoltà, hanno visto qualche difficoltà. Un marchio molto importante, l'amministratore delegato di questo marchio molto importante, 3-4 anni fa mi diceva: noi speriamo di vendere un po' meno TV quest'anno, perché per ogni TV che vendiamo perdiamo quattrini, e quindi certo dobbiamo esserci perché non possiamo non esserci, però sperando che gli anni futuri vada meglio, perché se va sempre così con la pressione sui prezzi noi perdiamo invece di guadagnare. Non c'è stata un'inversione di tendenza, i prezzi sono continuati a diminuire, e quindi di qui a qualcuno ha preso alcune decisioni drastiche. La più importante Philips. È quella di Philips. Sentite un po' qua, cosa ha fatto Philips, che è notizia, diciamo, i più attenti lo sanno perché è notizia di qualche settimana fa, però non se n'è molto parlato. No, Philips ha deciso che non era più opportuno rimanere nel business dei TV, quantomeno a livello produttivo, quindi ha ceduto tutte praticamente anche l'uso del marchio e le proprie linee produttive, se saranno interessanti, ma onestamente quelle localizzate in Europa sicuramente non saranno considerate interessanti, ha ceduto a un grande gruppo cinese che quindi procederà con partendo dai progetti attuali di Philips, ma sviluppandoli poi ci si immagina a modo suo, anche sotto un comitato di controllo che comprenderà anche persone di Philips, che dovranno comunque vigilare, perché il marchio poi col quale usciranno queste TV sarà comunque Philips, e quindi dovranno vigilare sulla qualità, e quindi hanno ceduto il business dei TV. È una cosa molto grossa, diciamo, nel mercato, perché Philips per molti anni, per decenni, è stata considerata la regina dei TV, soprattutto in Europa. E in questo modo diciamo che è l'ultimo grande produttore europeo che cede alla competizione e purtroppo non resiste in un business che si è fatto ormai drammaticamente globalizzato. Fino a qualche tempo fa, fino a 10 anni fa, i TV venivano prodotti localmente per i mercati locali. 20 anni fa, tornando un po' più indietro, c'erano proprio produttori italiani di TV, perché c'erano delle caratteristiche dei mercati locali che richiedevano una produzione locale. Oggi i TV sono globali, lo stesso modello è venduto in Giappone, negli Stati Uniti e in Europa, e quindi la competizione si fa sui grandi numeri. Quindi non c'è più nessuno in Europa, men che meno in Italia, che produce TV. Ci sono degli assemblaggi di TV in Italia, ricordo ancora Mivar che recentemente ha detto, per voce del suo amministratore delegato Carlo Vicchi, ha detto appunto che io continuerò a produrre TV anche se ci perdo, perché in questo modo restituisco alla collettività quello che la collettività negli anni d'oro mi ha dato. È una posizione molto particolare. Vicky è uno particolare, diverso, certo. dal classico amministratore delegato di una multinazionale. Che fa i conti non troppo, in maniera non eccessivamente legata ai budget, ai ritorni sugli investimenti, eccetera, eccetera. Lo fa anche per una certa soddisfazione personale, almeno questo traspare dalle sue parole. Riprendiamo tra un minuto. 2024. Oltre all'email e a Facebook, alla nostra pagina Facebook, potete contattarci anche tramite il nostro numero verde 824 0024 oppure tramite gli SMS 349-238-6666, insomma potete scegliere quello che preferite. Più tardi parleremo di decodere, su questo che vi invitiamo a chiamarci per le vostre domande, le vostre considerazioni. È con noi Gianfranco Giardina che guida il magazine digitale dday.it e stiamo appunto parlando di alcune notizie che sono state pubblicate da D-Day nelle ultime settimane, questa trasformazione molto violenta nel mercato della produzione dei televisori. Dunque Gianfranco, abbiamo detto, in Europa c'è qualcuno che assembla cose che comunque arrivano dall'Oriente, quindi mi sembra di capire che ormai sia un polo a tre, cioè produzione magari di media bassa qualità in Cina, poi Giappone e Corea. Corea del Sud. Sì, Giappone e Corea sicuramente. Va fatta una distinzione per completare quello che abbiamo detto tra la produzione dei pannelli e la produzione del TV, a parte il pannello, quindi l'assemblaggio del pannello in tutto il resto che compone un TV, quindi il telaio ma anche l'elettronica, gli altoparlanti e tutto il design. Allora, i pannelli vengono prodotti praticamente esclusivamente in Estremo Oriente e poi vengono spediti e assemblati poi in Europa, o meglio in Europa dell'Est, quella che consideriamo Europa dell'Est, quindi Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, per uno degli ultimi marchi europei, cioè Löwe, vengono assemblati in Germania ancora. Quindi solo assemblati? Sì, cioè diciamo tutta la parte di progettazione viene fatta in Germania, la parte di produzione e realizzazione del telaio e tutto il resto dell'elettronica viene fatta in Germania, il pannello arriva dall'Estremo Oriente anche in questo caso. Perché le masse critiche necessarie per produrre questi pannelli sono talmente elevate che non si riesce a fare degli stabilimenti che siano efficienti distribuiti sul territorio. Una fabbrica di pannelli produce per tutto il mondo. Magari noi siamo abituati a pensare ai nostri stabilimenti, i capannoni. Ecco, una fabbrica di pannelli che lavora ovviamente 24 ore su 24 senza sosta, quasi interamente robotizzata, è normalmente uno stabilimento che è di 5 o di 6 piani, quindi sono come 6 capannoni sovrapposti, ovviamente per motivi poi anche di spazio, e hanno una produzione di migliaia di pezzi al giorno. Senti, ti faccio un'ultima domanda su questo capitolo. La produzione in Corea del Sud o in Giappone o in Cina equivale anche a differenti qualità o non è detto? Ma no, questo non è detto. I giapponesi per molto tempo e ancora oggi continuano a ritenere che la produzione dei pannelli debba essere un fatto prettamente giapponese, tant'è vero che le fabbriche dei pannelli dei grandi produttori giapponesi sono tutte in Giappone. È chiaro che produrre, per quanto la manodopera sia poca, relativamente alla produzione che viene fatta in questi stabilimenti, produrre con i costi della manodopera giapponese vuol dire avere dei costi sicuramente più elevati. Io penso, nessuno ovviamente può dire per certo che un prodotto cinese sia sempre meglio di un prodotto giapponese o di un prodotto coreano, questo probabilmente non è vero, però non mi sento neanche sottoscrivere il parere contrario, cioè che un prodotto coreano o giapponese sia sempre meglio di qualsiasi prodotto cinese. I cinesi hanno imparato ormai a produrre, hanno forse più di altri mercati una produzione incredibilmente variegata in termini di qualità, quindi dalle altissime qualità alle bassissime qualità. È chiaro che chi dovesse produrre, avesse volontà di produrre bassissime qualità, non va a farlo in Giappone, dove il costo della manodopera è molto alto. Chiaro. Quindi anche lì il fatto di trovare su un prodotto made in Cina, no, non è di per sé stesso un marchio di infamia, sì, ecco, sì, non sì, può sì. essere, almeno nell'elettronica. Bene, abbiamo dato uno sguardo a una parte del mercato che secondo me è poco conosciuta ed è bene, insomma, sapere quello che accade. Adesso abbiamo alcune notizie della settimana, partendo da una che riguarda il nostro gruppo, il Sole 24 Ore. Da questa settimana Nova, il settimanale di tecnologia e innovazione del Sole 24 Ore, cambia formato e giorno d'uscita. Lo troverete assieme al quotidiano la domenica, quindi da domani, e nel primo numero ci sarà un approfondimento sul cloud computing e sugli effetti che ci potranno essere anche per l'ufficio. C'è anche un'intervista al numero uno di Twitter, Dick Costolo, e a Massimo Marchiori, che è, se non l'inventore, l'ispiratore dell'algoritmo di Google. Al cloud computing dedicheremo anche noi una puntata di 2024 nella versione estiva a luglio. Adesso altre notizie della settimana. Digital News. Anche grazie al cloud e grazie all'aumento delle connessioni ad internet e alla loro capacità di trasportare dati, sta per arrivare una nuova categoria di computer. Sono i Chromebook di Google, prodotti da Samsung, le cui applicazioni sono su internet, quindi bisogna avere una connessione attiva per utilizzarle. Pixmania sarà il rivenditore ufficiale per l'Italia e il primo Chromebook Wi-Fi sarà disponibile dal 28 giugno, mentre la versione 3G sarà in vendita dal 25 luglio. Digital News. Un prodotto che invece è già disponibile in Italia è il nuovo BlackBerry Playbook di Rimi, tablet da 7 pollici con sistema operativo BlackBerry Tablet OS basato su questa nuova tecnologia QNX. Il mercato pare però non essere molto convinto del Playbook e soprattutto per le difficoltà della BlackBerry nel tenere il passo con i sistemi operativi rivali, ovvero iOS e Android. Digital News. Lunedì è il No Cash Day e la prima giornata contro il denaro contante. Da un'idea di Geronimo Emili, a Roma ci sarà un convegno, ma presto Emili sarà nostro ospite per parlare della diffusione del denaro elettronico anche nel nostro paese, delle nuove soluzioni, eccetera eccetera. Tutte le informazioni su nocashday.org, un appuntamento che si è festeggiato giovedì, ve lo ricordo per gli amanti, insomma, del calendario, sono i 100 anni della IBM. Notizia forse la più importante della settimana, la battaglia legale tra Nokia ed Apple, accusata di aver copiato alcune tecnologie finlandesi nel suo iPhone, si è chiusa a favore di Nokia. Apple ha accettato di pagare una cifra una tantum ed ora in poi riconoscerà alcune royalties per lo sfruttamento di tecnologie brevettate da Nokia. Le cifre sono confidenziali, top secret, ma si parla di centinaia di milioni di dollari per l'una tantum fra i 300 e i 600 milioni. Apple ammette così di avere sbirciato o di essersi almeno ispirata a brevetti Nokia. Nuovo capitolo del consolidamento nel settore della navigazione satellitare. L'americana Garmin ha comprato la tedesca Navigon, cifra indicativa 72 milioni di dollari. Abbiamo un'ultima notizia che riguarda l'utilizzo di internet. È disponibile la nuova versione del software per misurare la qualità delle connessioni a internet in banda larga. L'iniziativa si chiama Misura Internet, è promossa dall'Autorità per le Comunicazioni, ovvero l'AGCOM, e serve per misurare le prestazioni della propria connessione ADSL per eventualmente puoi usare i risultati in ogni eventuale controversia con il vostro operatore. Download disponibile su www.misurainternet.it. Adesso ci colleghiamo con Maria Chiara Grandis nell'ultimo minuto di questa prima parte di 2024. Oggi, Maria Chiara, dove sei nel tuo viaggio in Italia attraverso la tecnologia? Ciao Enrico, buon pomeriggio, oggi siamo a Palermo e siamo al punto vendita Euronics Gruppo Bruno. Oggi parliamo di decoder, l'hai già ricordato tu da studio, allora diciamo subito che qui in Sicilia il passaggio al digitale terrestre ci sarà il prossimo anno, però bisogna dire che i consumatori si sono per la maggior parte già attrezzati e anzi sempre più spesso scelgono decoder che, oltre a offrire la possibilità di guardare canali televisivi satellitari e poi digitali terrestre, offrono anche servizi aggiuntivi. E allora a chi abbiamo incontrato qui nel reparto audio-video abbiamo chiesto proprio quali sono le funzioni che determinano la scelta del decoder. Sentiamo le interviste. Fondamentalmente le porte USB, perché sono abbastanza comode per la lettura dei file multimediali, come file video, file musicali, quindi anche per questo. Ma ne cercavo uno che potesse registrare anche, con una registrazione programmabile. Di più internet, navigo spesso. È solo digitale terrestre, lo utilizzo solamente per guardare TV a pagamento. Quindi ha fatto anche degli abbonamenti? Sì. Ne ho preso uno a un basso prezzo che è anche un lettore DVD e DVX, è tutto compreso. 2024. La seconda parte di 2024 parliamo di decoder. Non so se a voi è chiaro il mercato, il panorama del mondo dei decoder. Non parliamo naturalmente solo di digitale terrestre, si è sicuramente iniziato a parlare molto di decoder quando è iniziato il passaggio, che ancora si deve concludere in Italia, perché come avete sentito poco fa da Maria Chiara Grandis, la Sicilia è una di quelle regioni che passerà al digitale terrestre completamente quest'altro anno, nel 2012. Dicevo, si è cominciato a parlare di decoder con più insistenza, con più frequenza, nel momento in cui si doveva passare dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale. Ma ci sono anche, e ci sono sempre stati da anni, i decoder ad esempio per vedere il satellite. Oggi sempre più anche decoder per connettere le TV a internet o connettere qualsiasi altra cosa, che ne so, uno schermo, un proiettore video alla rete internet, perché sicuramente il futuro delle immagini passa attraverso internet. Quindi tra qualche anno ci dimenticheremo anche del digitale terrestre, ma del resto lo dico da qualche tempo, di fatto stiamo adottando una tecnologia che è già vecchiotta. Nel giro di qualche anno faremo quasi tutto su internet. È con noi in questa puntata Gianfranco Giardina, che è il direttore di dday.it. Dunque Gianfranco, dicevo prima che abbiamo contato sul mercato 40, forse 50 tipologie diverse di decoder. Quindi sì, non parliamo di modelli, parliamo proprio di tipi. Poi per ogni tipo ci sono molti modelli. Incredibile. Quindi il famoso decoder unico è stato tecnologicamente cancellato da... Sì, è stata una lecita aspirazione del legislatore, ma direi completamente superata dalle tecnologie che hanno preso rivoli e diciamo strade diverse, non sempre compatibili tra loro, e hanno praticamente reso non impossibile la produzione di un decoder unico, ma sicuramente molto costosa, e non si poteva pretendere che tutti spendessero tantissimi soldi per avere accesso a tutte le tecnologie di trasmissione e a tutte le modalità, e quindi in questo caso il decoder unico è rimasto a lettera morta. Giusto per avere un'idea, quando parliamo di digitale terrestre parliamo di molte tipologie di decoder, perché ci sono quelli semplicissimi zapper, poi ci sono quelli tecnologicamente avanzatissimi che permettono di vedere in alta definizione, vedere programmi a pagamento, vedere internet. Sì, assolutamente, parliamo di tantissimi tipi di decoder anche già soltanto per il digitale terrestre. Questo perché, ahimè, i vari miglioramenti tecnologici alle messe in onda, cioè alle trasmissioni, non sono stati implementati tutti insieme, ma sono arrivati un po' alla volta, quindi si sono creati via via, anche nella cortissima storia del digitale terrestre, diversi strati di prestazioni, diversi livelli quindi di decoder. Quindi il primo livello è sicuramente quello che riguarda le trasmissioni in definizione standard, quindi in PAL, come l'abbiamo sempre viste negli anni passati. Queste trasmissioni possono essere ricevute con un decoder cosiddetto zapper, quindi che permette semplicemente di sintonizzare tutti i canali e di cambiare canale, o con un decoder interattivo cosiddetto, o anche MHP, che è la tecnologia che sta dietro a questa interazione. In realtà poi il mercato ci ha dimostrato come dell'interazione, inteso come T-Government, quindi collegamento con i servizi amministrativi dello Stato, della pubblica amministrazione, piuttosto che televoti, non se ne è fatto nulla. Non se ne è fatto niente. niente, e praticamente l'unica interazione che è rimasta molto importante invece è quella con le pay TV, quindi il fatto di poter inserire nel decoder una scheda, per esempio di Mediaset Premium, e comprare un evento oppure vedere gli eventi in pay TV se si è abbonati, tipicamente alla partita di calcio. Ecco, questo è quello che in realtà distingue chiaramente questi due tipi di decoder. Lo Zapper non permette di vedere i programmi a pagamento, il decoder MHP permette invece di inserire una scheda e vedere anche le trasmissioni a pagamento. È una semplificazione, ma è per essere chiari. A questi si aggiungono poi ovviamente le versioni di questi due decoder compatibili anche con l'alta definizione. Infatti sono incominciate anche su digitale terrestre trasmissioni in alta definizione, ma ovviamente bisogna avere un decoder che sia in grado di sintonizzarle e che abbia un'uscita in alta definizione. Quindi questi decoder, sia lo Zapper che decoder MHP, sono disponibili anche con l'uscita in con la capacità di sintonizzare l'uscita in alta definizione. Questi decoder sono consigliabili, a mio avviso, anche per chi vuole in questo momento vedere i canali in definizione standard, per un motivo molto semplice. Tutti i TV sono pannelli digitali, le trasmissioni sono ormai interamente digitali, se parliamo di digitale terrestre, l'unico tratto in cui diventano analogiche è dal decoder fino al TV, se il decoder è un decoder in standard definition, cioè se è collegato con il classico cavo SCART. Il cavo SCART è un cavo analogico, quindi il segnale viene trasformato in analogico e poi trasformato in digitale, con una conseguente perdita di qualità. Il consiglio per avere un segnale sempre buono è quello di collegarsi invece in HDMI, che è il cavo digitale unico che trasporta sia audio che video in formato digitale. Il video a questo punto non assume più una conversione digitale-analogico e poi analogico-digitale, resta digitale per tutto il suo percorso, dalla messa in onda fino al TV di casa. E questo è sicuramente il modo qualitativamente migliore, anche per trasmissioni in bassa definizione. Ovviamente questi decoder costano un po' di più, probabilmente gli utenti sarebbero anche disposti a spendere un po' di più se soltanto sapessero bene che cosa farsene. Se la risposta è vedere ogni tanto le poche trasmissioni in alta definizione che per il momento ci sono sul digitale terrestre, ovviamente questo non può non essere. Abbiamo finito motivo. La lista dei decoder. No. Abbiamo solo iniziato, perché poi su tutti questi decoder possiamo aggiungere le porte USB per esempio vedere dei contenuti da che sono su delle chiavette esterne. O su hard disk esterne. Ma la porta USB può anche essere con la funzione PVR, e quindi Personal Video Recorder, cioè registrare delle trasmissioni. Video registrare sempre su chiavetta o su hard disk. Sì. Attenzione, però la videoregistrazione può essere fatta di quello che sto vedendo oppure anche di un altro canale. Per questo, in questo caso avrei bisogno di un altro decoder, che altro è quello con doppio tuner. Quindi un'altra scatola diversa con doppio tuner. In alcuni casi ci sono anche i decoder che hanno l'hard disk integrato, che quindi non hanno bisogno di una chiavetta o di un hard disk esterno, sì, ma registrano direttamente sull'hard disk. Non abbiamo finito. No, perché dopo ci sono quelli per i servizi specifici. Stiamo ancora parlando di digitale terrestre. Per esempio, Mediaset offre un servizio che si chiama Premium On Demand, che permette di avere sul proprio hard disk una serie di contenuti, se ovviamente si è abbonati a Mediaset Premium, e ci vuole un decoder che sia certificato e compatibile col servizio Mediaset Premium On Demand. C'è un ulteriore servizio che è partito non da molto, che si chiama NetTV, che permette addirittura di fare del video on demand via internet, quindi in questo caso i contenuti non arrivano più dal digitale terrestre, ma arrivano via internet, quindi il decoder deve essere collegato e collegabile anche a internet, anche qui altro tipo di decoder, e permette di vedere una serie di contenuti aggiuntivi rispetto al palinsesto di Mediaset Premium, ovviamente on demand. Continuiamo la lista, adesso non la faremo tutta la lista perché poi passiamo anche al satellite e alla TV via internet, anche se le cose poi si intersecano. Sono le 16:16 minuti, ci risentiamo tra un minuto. 2024. Sono le 16:17 minuti, Domenico da Milano, buongiorno. Buongiorno. Volevo segnalare, voi avete appena detto che non esiste il decoder unico. Volevo segnalare che una piccola media impresa di Ravenna... Sappiamo già cosa vuol dire. Ecco, ha fatto una macchina che è compatibile sia Sky sia Mediaset Premium, quindi satellitare, digitale terrestre, pagamento è free. Guarda, Domenico, abbiamo dedicato a XDome una puntata di 2024 un anno fa, una cosa del genere. Non appena uscito il prodotto. Adesso però risponde Gianfranco Giardina, perché quello è un decoder che tenta di essere unico, ma purtroppo unico non è proprio, perché qualcosa manca. Beh sì, se dovessimo pensare a un decoder unico come un oggetto che riceve tutte le modalità trasmissive, potrei dirle per esempio che se io volessi accedere al servizio Premium Net TV piuttosto che Premium On Demand, piuttosto che la Catch Up TV della Rai o di La 7, ecco, con quel prodotto non posso farlo. Anche se effettivamente è uno dei più diciamo multicompatibili, dei più aperti che ci sono, assolutamente interessante, perché che si permette di vedere sia il digitale terrestre che Sky in una scatola sola. E questo è molto interessante. Sentiamo Giovanni che ci chiama dalla provincia di Milano. Buongiorno Giovanni. Buonasera e complimenti all'esperto. Prego. Volevo fare questa questione. Ascolti, il decoder digitali terrestri T2, no? Io volevo sapere, ce n'è qualcuno in giro, ma quali canali in più prende questo decoder e che cosa vuol dire T2? Domanda chiarissima, grazie Giovanni. E ascolta un'altra cosa, un'ultimissima cosa. Nel condominio nostro abbiamo un impianto satellitare IFIF. L'antennista mi ha detto però che io, se dovessi mettere il decoder Rai Media 7 Telecom TV Sat, non prenderei niente perché scende solo Sky. Volevo sapere come mai. Sì, grazie Giovanni. Gianfranco, T2. Allora, DVB T2 è un'evoluzione dello standard attualmente utilizzato in Italia, che è il DVB-T, che a fronte di nuovamente una nuova tecnologia di codifica ottimizza la risorsa etere, praticamente nella stessa frequenza ci fa stare più roba, quindi è come dire maggiore qualità o qualche canale in più. Sì. L'Europa ha dato indicazione gradualmente, di non appena si può, insomma, di adottare questo standard che è più efficiente, evidentemente. Il problema qual è? Noi non abbiamo ancora finito il passaggio al digitale terrestre DVB-T. Quello normale. Dire oggi a tutti i consumatori, guardate che ancora si stanno attrezzando alcuni, guardate quello che è stato fatto fino ad oggi non vale più, perché adesso trasmettiamo in DVB-T2 e bisogna cambiare tutti i decoder. Tutti i decoder, perché ovviamente col vecchio decoder non si ricevono queste nuove trasmissioni. E questo ovviamente è impensabile in Italia, può essere pensabile per chi passasse al digitale terrestre oggi, iniziasse oggi un percorso, allora potrebbe iniziarlo in DVB-T2. Noi abbiamo iniziato quando il DVB-T2 non esisteva, e quindi ovviamente è impensabile che accada oggi. Quindi se lei comprasse, il nostro ascoltatore Giovanni, se comprasse un decoder DVB-T2 oggi, non vedrebbe nessun canale in più rispetto a quelli che sono già disponibili. Naturalmente il DVB-T2 è retrocompatibile, cioè vede anche i canali normali. Sì. C'è un emittente che ha iniziato prima su Roma e poi su Milano le trasmissioni solo pay TV in standard DVB-T2, ma lo fa con un ricevitore proprietario, cioè a chi si abbona da un ricevitore incomodato, e quindi è chiaro che in questo caso si può fare trasmissione di DVB-T2 con un ricevitore specifico, ma non è nessuno oggi ha bisogno di un ricevitore di DVB-T2. Dunque, poi l'ascoltatore ci poneva anche un'altra questione, non so se ci mettiamo troppo tempo a rispondere. No, ci mettiamo molto poco. Modalità di trasmissione del segnale satellitare è un segnale modulato su un cavo solo, quindi viene portato dal tetto alle case su un cavo solo, sia il segnale antenna terrestre che quello satellitare, e poi viene demodulato all'altezza della presa di casa. Sì. Ovviamente così non si può portare tutta la banda satellitare, e l'antennista regola di portare giù cosa? I canali di Sky, che sono quelli ovviamente più richiesti, probabilmente neanche tutti. Quindi bisogna volendo vedere altri canali, altre frequenze, non si ha tutto lo spettro satellitare con questa modalità. Bisognerebbe fare un montante satellitare e una distribuzione con un nuovo cavo completamente parallelo al digitale terrestre, il che significa in alcuni casi, con alcuni condomini soprattutto vecchi, un costo di infrastruttura molto alto. Maria Chiara Grandis, tu oggi sei appunto a Palermo, hai parlato con direttore commesso del punto vendita dove ti trovi, giusto?

Poi ci sono i capitoli dei MySky, il MySky classico e il MySky HD. Il MySky classico e il MySky HD integrano un hard disk e permettono la registrazione dei contenuti. In alcuni casi anche qualcosa di più, quindi il fatto di poter avere sull'hard disk, questo vale per il MySky HD, anche l'autoregistrazione di altri contenuti che vengono diciamo caricati da parte di Sky sul nostro hard disk, perché presumibilmente sulla base delle cose che abbiamo già scelto, già visto, potrebbero piacere. Sì, si fa un simil on demand, diciamo così. E quindi noi ce lo troviamo già pronto da vedere sull'hard disk. Dunque, abbiamo accennato, ma accenniamo ad internet, perché ci sono dei, non so se chiamarli in questo caso decoder, che permettono di vedere anche programmi che arrivano da internet. Ad esempio, abbiamo citato nell'intervista, abbiamo sentito poco fa, anche il Cubo Vision di Telecom Italia, ma ci sono prodotti analoghi e simili. Sì, ecco, su internet, per quello che riguarda la cosiddetta IPTV, non esiste uno standard di trasmissione come il DVB-T, come la messa in onda via etere classica. Esistono diversi stream ai quali ci si può agganciare, però secondo logiche di volta in volta sempre diverse, secondo codifiche di volta in volta sempre diverse, e quindi bisogna che per esempio il produttore di un set-top box che volesse dare accesso all'IPTV scriva il software per fare un accordo col fornitore scrive il software che sia in grado di agganciare quello stream in maniera corretta. Quindi in questo caso non esiste il concetto di decoder come siamo abituati a intenderlo, cioè un qualche cosa, un sintonizzatore che io metto lì e catturo tutti i canali IPTV disponibili, ma su internet, che poi tra l'altro sono tantissimi, ma soltanto quelli per cui quel produttore ha fatto un accordo specifico. L'esempio più tipico è quello che troviamo all'interno dei TV già in questo momento, sotto il nome di Connected TV o Smart TV, cioè sono questi TV che hanno l'attacco di rete e che al proprio interno hanno già il software e la logica che permette di sintonizzare molti canali o molti contenuti on demand presi via internet. Altre situazioni sono più semplici, come per esempio abbiamo accennato i canali Rai o i canali La 7, anche questi soltanto su alcuni apparecchi sono raggiungibili, si può vedere per esempio l'ultima settimana di programmazione come se si fosse fatto una videoregistrazione virtuale. Fortuna che l'industria in generale dice che si sta andando verso una semplificazione. Questo è un caos pazzesco. Beh, diciamo che si fanno molti sforzi per semplificare, ma la flessibilità dell'offerta digitale è tale che ovviamente si possono avere così tante cose che anche poi razionalizzarle e semplificarle deve essere un compito anche un po' dell'utente nel documentarsi, magari nell'ascoltare 2024. Sentiamo Marco, che chiamo dalla provincia di Roma. Buongiorno Marco. Sì, buongiorno, salve. Io ho un decoder premium on demand in HD e praticamente spesso e volentieri i canali Rai, i primi tre canali, mi danno problemi, mi si disconnette l'immagine dicendomi segnale debole, che poi con lo stesso cavo che entra nel decoder poi riesce e va in televisione e si vede tranquillamente se escludo il decoder. Come mai? Bene, Gianfranco, se abbiamo una risposta veloce, bene, perché poi si può pensare che il segnale che viene dal multiplex che contiene i canali Rai, Rai 1, Rai 2, Rai 3, sia un segnale un po' debole nella sua zona, per causa dell'antenna, causa del suo impianto e del suo chiaramente posizionamento rispetto all'impianto di trasmissione. Se il segnale è di soglia, può essere che alcuni decoder un po' meno sensibili lo sintonizzino meno bene e alcuni decoder più sensibili invece riescono a sintonizzarlo meglio. Il consiglio è quello di far rivedere l'impianto per guadagnare quei 3-4 dB di segnale che le permetterebbero di avere un segnale buono su entrambi gli apparecchi. Dunque, tra poco sentiamo Mauro da Alessandria e Eugenio da Roma. Adesso c'è la pubblicità, ci risentiamo tra qualche minuto. 2024. Le 16:35 minuti, questo è 2024, io sono Enrico Paglierini, vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24. Tutte le informazioni sono online, anche la pagina del podcast è su www.radio24.it. Avete ascoltato una prima parte di trasmissione con una serie di considerazioni su questa esplosione di tecnologie diverse per i decoder e giustamente alcuni ascoltatori si fanno una domanda: ma cosa succede quando acquistiamo una TV? Sentiamo prima Mauro da Alessandria, poi Eugenio da Roma. Mauro, buongiorno. Pronto, buongiorno, grazie per avermi richiamato. E la domanda era proprio quella, cioè innanzitutto io sto cercando un nuovo TV, ovviamente, però onde evitare al massimo di cavi, cavetti, avere due decoder, eccetera, eccetera, volevo acquistare una TV con un decoder. Però interno, il problema, beh, oramai ce l'hanno tutto, il problema è, però mi pare di capire che non potrebbe non essere sufficiente. Esatto. Sì, ecco. Sì, sì, sì. E poi una domanda nella domanda, se è possibile. Una volta uno andava in un negozio, la scelta era molto più limitata sicuramente, ma si trovava di fronte sempre delle persone esperte. Normalmente invece ora ti informi un po' su internet piuttosto che su delle riviste, arrivi là ne sai più di loro, o almeno di più. Se in che modo ci si può informare bene per fare un acquisto che a volte è anche piuttosto costoso, oltre che seguire voi? Io ripeto, seguite noi, anzi chiedete al nostro direttore di ripristinare 2024 tutti i giorni della settimana per avere più tempo a disposizione. A parte le battute, che sono battute fino ad un certo punto, grazie a Mauro, sicuramente leggere i siti specializzati come dday.it, che offre sempre panoramiche, questo comunque non è vero sempre, ci sono anche grandi catene distributive che mandano lezione ai propri commessi per informarsi. Gianfranco, effettivamente quello dell'acquisto della TV è un problema, però penso che Eugenio voglia aggiungere una cosa o fare una domanda analoga. Buongiorno Eugenio. Buonasera, intanto complimenti per la trasmissione, anch'io mi associo alla, diciamo, all'ascoltatore precedente. Cioè, il problema è questo: comprando un televisore col decoder incorporato, supponendo che cambia lo standard, il famoso DT2, che fa? Dovrò rimettere un altro decoder esterno che si adegui, quindi insomma c'è sicuramente una difficoltà in questa operazione in cui non si capisce bene dove si va a finire, perché poi il satellitare magari è un'opzione, non è un obbligo, mentre il digitale terrestre in una forma o in un'altra è diventata una forma di obbligo per poter vedere la televisione, quindi c'è una difficoltà di questa natura e quindi volevo sapere che si fa, insomma. Grazie Eugenio, buon ascolto e grazie di averci chiamato. Gianfranco. Allora, la soluzione maggiormente a prova di futuro, quindi quella che ci mette a riparo da qualsiasi cambiamento di tecnologia, è quella di avere un display ed esternamente un decoder. Questo perché poi il decoder può cambiare e i soldi spesi nel display restano comunque, ovviamente non affonda l'investimento, restano comunque validi, ben spesi. Però si trovano solo TV vere e proprie, display. No, però, vabbè, display in generale, ci posso usare anche un TV come fosse un display, okay, ovviamente okay, con un decoder esterno. Okay. Ovviamente è vero che abbiamo dei fili, è vero che abbiamo due telecomandi, è vero che abbiamo delle scomodità e quindi è molto meglio avere una situazione integrata. Non è soltanto una cosa di buon senso, anche il legislatore ci ha pensato, siamo garantiti da questo punto di vista. Per quello che riguarda le trasmissioni digitali terrestri normali, tutti i TV in commercio in questo momento per legge hanno un decoder digitale all'interno e quindi sono in grado di sintonizzare i canali normali, sì, permettetemi. Non tutti sono in grado, per esempio, di sintonizzare i canali in alta definizione, anche se sempre più anche questo è vero. Non tutti sono in grado di sintonizzare i canali in alta definizione a pagamento, per esempio, anche aggiungendo una cam. Ecco, quindi il punto qual è? Il servizio di garanzia, il servizio minimo, c'è per tutti comprando un TV. Se invece si vuole avere un servizio migliore perché si è un po' appassionati di tecnologia o non si vuole rimanere, come dire, ai minimi, no? È chiaro che allora a quel punto bisogna guardarsi un po' in giro e ragionare. Oggi attualmente i TV sono disponibili in molte formule, ma quasi sempre con il tuner digitale in standard definition e in alta definizione già integrato nel TV. Ovviamente non c'è il problema del passaggio al segnale analogico e poi digitale, perché tutto avviene nel TV, tutto resta digitale e quindi è sicuramente una cosa buona e consigliabile. Però ripeto, chi compra un TV oggi se lo ritrova già. Non tutti i TV possono per esempio registrare i programmi su chiavetta USB o su hard disk. Non tutti i TV possono sintonizzare i canali gratuiti via satellite, che per alcuni è una cosa sicuramente interessante. Nessun TV al momento può sintonizzare canali di Sky, e quindi comunque se voglio vedere Sky ho bisogno del decoder esterno, e quindi in qualche modo non ci liberiamo completamente dal decoder, ma una scelta quando si acquista il TV, una scelta, praticamente si sceglie anche un po' che modalità di decoder si vuole. Se ci si butta sul primo prezzo, probabilmente le funzionalità un pochino più evolute e aggiuntive non ci saranno. Però anche qui bisogna vedere quanta allergia si ha ad avere uno o più decoder sotto il TV, quanta propensione alla spesa si ha, quanto si ha interesse per avere questi servizi più evoluti come la registrazione, come l'alta definizione. Il mio consiglio è quello di non buttare via un TV che funziona perché c'è una nuova modalità di trasmissione. Decoder, che costa generalmente molto meno di un TV, è fatto apposta per garantire una vita un po' più lunga ai vecchi TV, anche se so benissimo che magari quando le complicazioni di collegamento incominciano a essere tante e il TV vecchiotto, ecco che la voglia di comprare un TV nuovo, certo. Ed è una buona scelta. Esistono, a proposito di display, TV che sono un po' come i monitor del computer, cioè che non hanno nessun decoder, che fanno solo il display. Non sul mercato consumer, ne esistono molte, sono di derivazione professionale e alcuni utenti consumer li usano, magari quelli che dicono io non sono per niente interessato ai programmi TV, mi annoiano, e quindi sono interessato praticamente per vedere soltanto i miei Blu-ray piuttosto che a vedere altre cose. Ecco che a quel punto uno può anche dimenticarsi di avere il tuner, ma visto che parliamo di decoder e quindi parliamo di trasmissioni televisive, non è questo l'argomento. Bene, adesso ci colleghiamo con Maria Chiara Grandis per le ultime domande alle persone che tu hai incontrato, cioè persone che sono forse interessate all'acquisto di un decoder. Maria Chiara. Sì, Enrico, perché qui a Palermo abbiamo avuto proprio la conferma di quello che dicevate voi da studio, e cioè che chi acquista un decoder esterno lo fa soprattutto per avere servizi aggiuntivi, d'accordo, ma non solo, a volte il decoder esterno si acquista anche perché non si vuole buttare via un vecchio TV che invece funziona. Ecco allora le voci di chi abbiamo incontrato mentre sceglieva un decoder. Abbiamo un paio di LCD un po' datati, no? Che però funzionano bene, però non sono equipaggiati dal ricevitore digitale, per cui optiamo per questa soluzione che penso di spendere un po' meno. Secondo voi i prezzi sono accessibili? Sì, anche come qualità abbastanza. Ne ho già un paio comprati e devo dire che funzionano in modo egregio. Quindi ogni TV della casa lei l'ha collegata a un decoder? Ancora non tutti, però dovrò attrezzarmi. Adesso sono attrezzata anche per il 2012 anche a casa, quando la potrò ricevere anch'io. Ha scelto di acquistare il decoder separato e non integrato al TV? Perché ancora tutti i miei televisori funzionano ancora tutti bene, sono ancora a tubo catodico a casa, tranne uno. Il vecchio e caro tubo catodico che, come ha detto in una puntata recente Gianfranco Giardina, si è ritirato dalla gara, quindi purtroppo non va più utilizzato come punto di riferimento, come benchmark. Prima delle informazioni che arrivano da Strade e Autostrade, vi ricordo e vi segnalo che Radio 24 partecipa ad un progetto europeo che si chiama Nano Channels, dove nano sta per nanotecnologie, un progetto che vuole realizzare un rapporto migliore fra innovazione tecnologica e pubblico in campo scientifico, appunto quello delle nanotecnologie. Radio 24 è presente con la trasmissione di Scienza Möbius e vi invitiamo a compilare un questionario online. Lo trovate facilmente digitando su Google Möbius Scienza. Möbius è scritto Moebius, giusto per farci capire. Le 16:44 minuti, adesso ci sono le informazioni che arrivano da Strade e Autostrade, riprendiamo tra poco. 2024. A 2024, come del resto in tutti i programmi di Radio 24, selezioniamo le domande che arrivano via telefono, anche per motivi di numero, di affollamento, perché non possiamo, come si diceva una volta, dar corso a tutte le telefonate, e stessa cosa vale anche per i messaggi che arrivano via posta elettronica, Facebook oppure SMS. Però un messaggio al quale non sappiamo dare risposta, ma ve lo leggo perché è simpatico, di un ascoltatore che non si firma: mi dispiace quando non vi firmate. Comunque, come mai a Udine dalle 20 circa in poi la 7 non si vede più? Caro ascoltatore, lo chiamiamo Paolo così per farci capire, cosa vuole che ne sappiamo noi, che tra l'altro stiamo a Milano, se a Udine dalle 20, tra l'altro, così preciso, non si vede più la 7. È un mistero. Cercheremo di indagare. Saluto Davide Rossi, che è il direttore generale dell'AIRES. Benvenuto, bentornato. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. L'AIRES, lo ricordiamo, è l'associazione delle principali catene di elettronica di consumo, dico bene? Sì, esattamente. Quindi sono, diciamo, la stragrande maggioranza dei consumatori italiani passa all'interno di questi punti vendita. Beh, possiamo dire un po' di sì, perché in un anno abbiamo circa 260 milioni di passaggi. E quindi insomma, qualcuno passa più volte. Molte volte per confrontare i prezzi, perché in fondo i nostri punti vendita sono anche dei grandi showroom, sono 1800 punti vendita in tutta Italia, se le sommiamo completamente, insomma devo dire che c'è anche molto da imparare in termini di nuove tecnologie. Ah sì, certo, beh diciamo che capita spesso che uno senta qualcosa per radio, oppure legga qualcosa su dday.it, su internet, e poi dico vabbè, però lo voglio andare a vedere, provare, magari passa quelle volte prima di fare un acquisto. Assolutamente sì, beh, questo è un po', se voglio dire, anche se mi faccio un po' di pubblicità come associazione e come settore, andare in un negozio specializzato è sicuramente una garanzia di trovare delle informazioni più precise, più dettagliate, più aggiornate. Anche se prima un ascoltatore ha tirato le orecchie, dice in qualche punto però non trovo un commesso, magari un commesso appena arrivato. Oggi Rossi è con noi perché vogliamo festeggiare, non ha portato la bottiglia di spumante, ma da un anno esiste una cosa molto interessante per i consumatori, a me fa piacere ricordarlo, anche perché fra poco dovrò comprare una lavatrice, ad esempio, mi interessa, ma questo vale per il decoder, per la TV, eccetera, eccetera. Ho detto all'inizio della trasmissione, famoso, non so però quanto famoso sia, uno contro uno, che sarebbe a dire... Dal 18 giugno dell'anno scorso, quindi del 2010, è entrato in vigore questo decreto ministeriale che obbliga chiunque venda un apparecchio elettrodomestico a ritirare un analogo apparecchio a titolo assolutamente gratuito per il consumatore, sia che il consumatore lo porti per conto proprio nel negozio, sia anche il consumatore l'abbia installato a casa, quindi nel caso dell'acquisto di una lavatrice la bella sorpresa è che non si pagherà nulla per vedersi ritirato a casa quell'elettrodomestico, mentre in passato era necessario pagare un rimborso spese per questa attività. E quell'elettrodomestico va poi smaltito. Tutto questo poi si inserisce in un circuito, devo dire, virtuoso di smaltimento, di raccolta e di smaltimento e di recupero, che è uno degli elementi fondamentali, io penso, del futuro dell'elettrodomestico. Questi apparecchi sono fatti con parti molto delicate da un punto di vista tecnologico, ma soprattutto con materie prime che devono essere di alta qualità, di alto livello. Quindi recuperare le materie prime è l'attività che viene svolta. Non che questi apparecchi ritornano e se ne estrae un pezzo già funzionante per utilizzarlo per un'altra riparazione. Assolutamente non questo. Il fine di questo impegno è proprio quello di recuperare le materie prime. Ho sentito un dato che citava Danilo Bonato, che è il presidente del centro di coordinamento RAE, in una conferenza la scorsa settimana. Per estrarre l'equivalente del peso di un anello d'oro, di una fede matrimoniale, bisogna scavare 40 tonnellate di terreno. E questo non solo comporta ovviamente un vulnus al territorio, ma anche degli enormi costi dal punto di vista energetico e purtroppo, devo dire la verità, per quello che riguarda le miniere, anche a volte dei costi in termini di salute e di vite umane. Quindi il futuro dell'elettrodomestico, di tutta l'industria elettronica, è quella di recuperare materie prime, creare queste che vengono chiamate materie prime seconde, che consentono non soltanto un recupero economico, ma soprattutto un grande passo in avanti in termini di sensibilità ambientale. Dunque tutti gli attori collegati a questo sistema, a questo progetto, che poi più che un progetto insomma è una previsione di legge, un obbligo di legge, avete dei dati, potete dire che è stato un successo o non ancora pienamente? Perché, come dicevo, forse non tutti i consumatori, devo dire anche qualche negoziante fa finta di non sapere ricordare. A parte effettivamente le grandi superfici, probabilmente, anzi sicuramente, chi fa parte del vostro network si è adeguato alla legge, però non proprio tutti sul territorio italiano. Ma allora devo dire anzitutto, l'aspetto positivo è che si sono raggiunti anche in Italia i 4 kg per abitante raccolti nel corso di un anno. Era un obiettivo che l'Unione Europea ci aveva dato per il 2008, ci siamo arrivati un po' in ritardo, ma ci siamo arrivati, vuol dire 250.000 tonnellate di materiali recuperati in un anno, e questo è un dato sicuramente positivo. L'altro dato positivo naturalmente riguarda il fatto che i nostri punti vendita e certamente anche altri che non fanno parte delle nostre sette sorelle, delle sette catene che citavamo prima, si stanno adeguando magari con tempi un po' più lenti, e quando comunque il consumatore è certo dei propri diritti e li richiede, si è obbligati in ogni caso, anche se non si volesse, a dare seguito a tutto questo. Peraltro noi abbiamo fatto un video che è presente nel nostro sito, se posso citarlo, è www.airesitalia.it, Aires come Buenos Aires senza Buenos, dico di solito, proprio tutto attaccato, airesitalia.it, e c'è il video con due persone che spiegano esattamente quali sono i diritti del consumatore. Quindi più i consumatori sono informati, più i loro diritti sicuramente verranno temperati. Il problema che però noi abbiamo, ed è un problema molto grave, è che non sempre i comuni ci stanno seguendo, perché una volta che noi abbiamo raccolto quel materiale, la logica vorrebbe che noi lo potessimo conferire presso un centro di raccolta messo a disposizione delle amministrazioni comunali, e questo è non sempre, anzi devo dire piuttosto raramente, semplice e molto costoso. Noi abbiamo fatto una stima, soltanto alle nostre imprese tutto questo sistema è costato nel corso di questi 12 mesi circa 18 milioni di euro. Quindi uno mi dirà, non sono tantissimi perché siete imprese molto grandi, beh insomma 18 milioni di euro sono, non sono neanche una cifra cospicua, che è un costo che è rimasto completamente sulle spalle del nostro settore, perché quello che si paga, il cosiddetto ecocontributo su alcune tipologie di elettrodomestici, in verità va in quel circuito là, non viene a noi. Ad esempio i comuni hanno ricevuto lo scorso anno già 56 milioni di euro di contributi per questo genere di attività, che però non hanno svolto in maniera così precisa. Ecco, questo è un po' il problema che ci troviamo ad affrontare. Da un lato comprendo le difficoltà delle amministrazioni comunali, noi stiamo lavorando con grande collaborazione insieme all'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e col Centro di Coordinamento RAE e coi consorzi, ma è un meccanismo molto difficile e a volte farraginoso, proprio perché l'Italia è lunga e stretta, i problemi territoriali sono molto diffusi. Dunque Gianfranco Giardina mi ha mandato un messaggio dicendo ma online questa cosa funziona? È una domanda che appunto volevo fare a Davide Rossi, sapere se io poi invece quando compro online e compro da questi siti che non sempre magari fanno capo alle insegne note, ecco, poi dovrei quindi ottenere, pretendere e ottenere anche in questo caso? Al 100%. Non c'è nessuna esenzione, nonostante alcune interpretazioni che possono essere più o meno precise, non c'è nessuna esenzione per la modalità di vendita che viene effettuata. Quindi anche quando si acquista online si ha il diritto ad avere questo ritiro. Quindi infatti, qui aggiungo io, se mi trovo di fronte a un sito che non specifica questa cosa, non lo chiarisce, siccome ovviamente non ho un'interlocuzione diretta, siate sospettosi. È meglio stare alla larga. È proprio un giudizio mio personale. Devo dire anche questo: abbiamo un problema, come dire, di vuoto normativo, obiettivamente, perché quando si è scritto quel decreto ministeriale non si è contemplata questa ipotesi, e stiamo lavorando con le associazioni anche del commercio elettronico, del commercio online e con gli enti preposti per trovare una soluzione che possa essere in qualche modo, come dire, mediana rispetto alle situazioni esistenti. Però in questo momento, non essendoci un'esenzione, l'obbligo c'è, perché la legge generalmente ha una valenza, come dire, erga omnes, quindi se non è espressamente previsto che qualcuno non ha un obbligo, quell'obbligo vale per tutti gli operatori che sono sul mercato con qualunque modalità di interlocuzione con il pubblico. Infatti probabilmente la lavatrice la comprerò in un punto vendita fisico, tra l'altro di una insegna che fa parte della catena del network Aires, proprio per questo motivo, perché online ho trovato un sito che mi piaceva ed aveva un'offerta interessante che mi diceva fate trovare la lavatrice al piano stradale, e mi creava qualche problema, vedremo. Grazie a Davide Rossi, direttore generale di Aires, buon weekend e buon lavoro. Molte grazie a voi, grazie. Grazie anche a Gianfranco Giardina per essere stato con noi. A chi ci chiedeva come facciamo a essere informati, beh, ad esempio una soluzione è dday.it. Per esempio, che io leggo sempre, oppure appunto 2024. Grazie per la vostra attenzione anche per questa puntata, grazie a Fabio Cantadori che si è occupato della parte tecnica. Noi torniamo la prossima settimana. Come sempre vi ricordo l'appuntamento anche all'interno dell'offerta podcast di Radio 24, trovate tutte le informazioni online su www.radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Buon ascolto con i nostri programmi. 2024. 31 seconds.